Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Per iniziare il 2010 di Palla Spicchi, io vi faccio sentire quella che mi piacerebbe fosse la nostra nuova sigla, e cioè Danilo Gallinari che canta. Sentite. Every word I had to break is the risk that I'm taking, and I'm never gonna let you down. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Maybe I can see your halo. Imperdibile questo video su YouTube, andatelo a vedere, che canta con Al Harrington. Cioè Al Harrington per la verità ride come un pazzo. Allo di Beyoncé, io continuo a preferire Beyoncé, non so Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao Carlo, ciao amici sportivi, buon anno, Happy New Year. Happy New Year, Coach. Gallo che canta non è male, eh? Non è male, ma anche abbastanza bene. Beh, appunto, con un ritmo inglese, con una pronuncia inglese abbastanza buona, ma mi posso immaginare Al Harrington a sentire un ragazzo italiano cantare così, sarà la cosa più bella del mondo. Assolutamente, video imperdibile. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, Al Harrington in quel video aveva letteralmente la pancia in mano dal ridere. Poi c'è Coach, però c'è anche Gallo che gioca, che ci interessa molto di più. Gioca nella notte, distrugge Charlotte con le triple, due decisive negli ultimi due minuti, 97-93 per New York. Well, New York sta salendo un po' in classifica adesso, ci sono mezza partita dietro l'ottavo posto e in buon momento. No, ovviamente queste prossime tre partite che sono fuori casa sono difficili ma non impossibili, poi tornano il 15 in casa New York contro Toronto con Bargnani e Bellinelli, quindi ci sarà una grande riunione degli italiani lì a Madison Square Garden. Però queste prossime quattro partite sono importanti, poi anche se giocano in casa con Toronto, anche i Raptors stanno salendo, sono a 50% vittoria, Bargnani e anche Marco Bellinelli stanno giocando benissimo, quindi su tutte le fronti possiamo essere felici e contenti. Il Gallo ha sempre più anche la faccia giusta, anche più la personalità giusta. Tu sai che avrai letto su New York Times quella del tuo amico Donnie Walsh, presidente di New York, che gli ha regalato i video di Larry Bird e gli ha detto: tieni ragazzo, studiali. Well, Donnie Walsh ha allenato contro Larry Bird, Larry è stato il suo allenatore in Indianapolis, poi il suo presidente quando Donnie era Chief Executive Officer, cioè amministratore delegato, e quindi stanno paragonando molto Danilo con Larry Bird, con Rick Barry, con i giganti del passato, gli ali che sanno tirare e passare. Ma la cosa, hai detto tu di Danilo, grande personalità, grande convinzione, e se lui ha in mano la palla che scotta, non esita di tirare, e da tre è assolutamente micidiale adesso. 800 24 00 24 per intervenire, messaggi SMS 349 238 6666. Coach, torniamo passiamo dall'America all'Eurolega, perché le nostre squadre hanno davvero un compito, tolta chiaramente Siena, hanno davvero un compito difficile, sia Roma che Milano. Well, ma Siena rullo compressore, anzi vincono le partite per 30-40 punti, asfaltano tutti, hanno letteralmente steso un povero Ulker Fenerbahce di Borussia Tanjevic. Eravamo lì con Sport Italia l'altra sera, ma proprio una strage degli innocenti. E poi Fenerbahce non è una cattiva squadra, e rifiuto di credere che Tanjevic non sia un bravo allenatore. Per Milano, per Roma più problematico. Milano è una squadra che ha i suoi limiti, e quando tu hai limiti come squadra non puoi permetterti neanche un secondo di pausa, devi giocare 40 minuti al massimo. Ovviamente Milano fa fatica a fare questo, ogni partita c'è un periodo di blackout. Per esempio l'altro ieri abbiamo fatto la partita noi ieri sera, e Milano all'intervallo sotto di 1, 39-38, terzo quarto lo perdono per 10 punti, cioè 10 punti persi in 10 minuti, si trovano sotto 11, quarto, ed è pressoché impossibile. Anche Roma ha lo stesso problema, nel senso che non avendo veramente la super squadra, anche se ci sono dei buoni giocatori, non possono permettersi una pausa, non possono regalare niente agli altri. Invece le due squadre fanno questo. Infatti ieri abbiamo inquadrato, la regia ha inquadrato Piero Buchi due o tre volte, che lui era letteralmente furibondo, e lui ha detto alla fine, in italiano anche in inglese, questa partita è più importante per noi che per loro. Cioè lui ha detto questo, e lui ha detto una sacrosanta verità in questo qui. Quindi la partita per Milano voleva dire proprio promozione al top 16. E come diciamo, Kim che era già nel top 16, Kim che con questo cosa ha fatto? Terzo posto. Sì. E Kim che veniva da 23 giorni senza una partita ufficiale, quindi ruggini eccetera, cioè Milano aveva un'occasione, ma la storia di Milano nella Eurolega è che hanno gettato al vento dei buoni lavori, cioè cosa era, non so, 8 minuti dalla fine a Real Madrid più 13, perdono di 13, parziale 20-0 contro, quindi loro non, quando tu hai questo tipo di situazione non puoi regalare niente, non puoi rischiare un passaggio rischioso, non puoi forzare un tiro forzato, non puoi avere una disattenzione difesa, tu devi fare tutto al massimo sempre, non ti chiedo di fare l'impossibile, io ti chiedo di fare l'impossibile sempre, certo. Il possibile sempre. Comunque coach, ieri sera ho visto due squadre che non mi sembrano esattamente pronte per un palcoscenico importante, quando duri un tempo, il primo tempo, quello dei bambini, quello in cui si difende magari un po' di meno, non è un bel segnale, perché l'impressione è sempre, per Milano come per Roma, che quando le avversarie cominciano a difendere sul serio, scende la notte. Adesso dobbiamo guardare in avanti, perché tutte le due squadre devono vincere lo ultimo in casa per andare avanti, perché se Milano non vince con Real Madrid e Procom riesce, giocando in casa, giocando anche molto bene, battere Kimki, vince o perde il terzo posto, cosa può importare a più o meno a Kimki? Quindi questo è un rischio, anche Roma ha il durissimo compito di dover vincere in casa per proteggere tutto quello che è seminato quest'anno, quindi le due, io sono ovviamente la partita della settimana, cioè la Siena che va a Barcellona, forse le due squadre più in forma di Europa in questo momento, però stiamo tutti, anche noi di Sport Italia, lo ammetto apertamente, che stiamo sudando sangue per Milano e Roma, perché noi vogliamo certo. Top 16 per i nostri telespettatori, non con una squadra italiana ma con tre squadre italiane, anzi io sono triste ancora per l'esclusione di Benetton Treviso nella fase di qualificazione, quindi Milano e Roma hanno due partite che valgono, e non scherzo a dirlo, una stagione. Coach, la cosa incredibile è che Roma si trova a dover vincere questa partita e sperare che il Marussi non vinca la sua, perché ha buttato via incredibilmente una differenza canestri che era assolutamente sicura. Esatto, via. Roma deve vincere e non è neanche tutto nelle sue mani, perché Marussi è una di queste squadre che è molto ben allenata, che lui lì tutto l'anno hanno fatto qualche cambio, la squadra sta migliorando, l'abbiamo visto a Roma, avevano Roma sotto a Roma di 20 punti nel debutto di Boniciolo, poi è ingiusto anche dire questo di Boniciolo, poverino, arrivato tre giorni prima, però Marussi, grandissima prova, la squadra ha giocato molto bene, molto compatto, e ha superato il meno 12 in casa per vincere i 13 proprio a Roma, quindi hai ragione tu a dire ci sono due imponderabili per Roma, uno anche se vincono, se Marussi vince ciao al top 16, quindi una bruttissima situazione per Roma, e anche Milano non ha una cosa allegra, perché figuriamoci se Ettore Messina vuole tornare in Italia, allenatore di niente meno che Real Madrid, e perde una partita, è già primo nel suo girone, ma non ci penso minimamente, anche perché coach l'ha già persa quando allenava il CSKA, mi pare, quindi Milano non penso che voglia perdere la seconda, ma voglio di concedere, certo, il bis. Ma io conosco Messina, lui avrà proprio, cioè, non vedremo proprio le labbra di Messina, perché saranno tutti tirati dentro per la tensione che avrà addosso, che c'è, cioè, proprio lui vorrà vincere tutte le cose, e quindi Milano troverà una squadra già piena di talenti guerrieri come Garbo, Hose e compagnia, che vengono qui a Milano a sbancare il forum, quindi due compiti non dico impossibili, che è possibile tutto, ma durissimi, e sia Milano che Roma non può permettersi neanche un secondo, quantomeno un quarto, di regali, di distrazione, di disattenzione, non possono forzare un tiro, non possono sbagliare un tiro libero, non possono fare un passaggio rischioso, devono giocare come dicono in America, con il gilet abbottonato, capito? Cioè proprio devono stare veramente, veramente attenti con tutto. Grazie coach, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao a coach. Tutti. Ciao coach Peterson, ci fermiamo un attimo per il traffico, subito dopo torniamo e vi racconto una storia. Dunque adesso state a sentire, perché vi racconto una storia. Allora, una storia che non può farci che bene, secondo me, anche perché è l'esatto opposto dell'ultima odiosa vicenda Balotelli. Allora, Ousmane Gouye è un italiano, è nato in Senegal, è arrivato a Verona a 4 anni, lì è diventato giocatore di basket, è un frombolliere, è tra i primi cannonieri della A Dilettanti. Prima di campionato della A Dilettanti si gioca Fortitudo Verona davanti a 4.400 spettatori, quindi... Paladozza esaurito. Ousmane Gouye segna 27 punti, 7 su 8 da 3 punti. A un certo punto nel terzo quarto segna 5 triple consecutive. Poi i falli lo fermano, esce appunto per falli, va in panchina, fischi e forse qualcosa di più, anzi certamente qualcosa di più da parte di alcuni del Paladozza, non della Fossa dei Leoni naturalmente, non di gruppi organizzati, ma di qualche imbecille. Comunque gli arbitri sentono, scrivono a referto multa di 600 euro alla Fortitudo per cori anche palesemente razzisti. Questa è la motivazione ufficiale. Allora Ousmane Gouye prende carta e penna e scrive: spettabile Fortitudo, leviamo subito queste voci. Una società, squadra e pubblico che ama il basket come la Fortitudo Pallacanestro non può essere insultata con accuse di razzismo. Per quel che mi riguarda non ho sentito nessun coro, ma solo goduto dell'onore di giocare in quel magnifico tempio della pallacanestro di fronte a un pubblico che vive e ama il basket. Mercoledì, seconda puntata, perché c'è la parete di ritorno, no? A 200 metri dal Bentegodi, dove si è giocata Chievo-Inter, dove Balotelli ha appena detto quelle cose, sono appena successe tutte le cose che conoscete. A 200 metri di lì si gioca, a poche ore di distanza, si gioca la gara di ritorno tra Verona e Fortitudo. Cosa è successo? Ce lo racconta Ousmane Gouye. Buon pomeriggio Ousmane, e innanzitutto complimenti. Ciao a tutti. Per quello che hai fatto e non solo sul campo. Cosa è successo mercoledì? Mercoledì abbiamo giocato la prima gara di ritorno al Pallolimpia qui a Verona contro la Fortitudo. E... è stata una bellissima partita di basket, una bellissima giornata di sport al Pallolimpia, che ci ha riempito di orgoglio, insomma ci siamo divertiti tutti, tifosi, giocatori e non tifosi di basket sono venuti a vedere questa partita e per fortuna è finita bene per voi, sì, avete battuto la Fortitudo. Ma come ti ha accolto la Fossa dei Leoni, la tifoseria della Fortitudo quando sei entrato in campo? Io ero in campo in tensione, concentramento per la partita eccetera, quindi mi sa che non li ho neanche ringraziati a dovere, perché quando mi hanno presentato mi ha applaudito tutta la fossa e mi ha fatto un enorme piacere, insomma me ne sono accorto di tutto ciò ovviamente finito la gara, perché durante ero in diciamo quasi in trance agonistica prepartita, insomma, ed è stato un gesto che mi riempie di felicità, perché non solo perché confermo da veridicità a quello che ho detto io ancora all'andata, sì, ma anche da parte loro è stato un gesto bello, insomma, dopo quello che è successo, perché alla fine la multa l'hanno pagato lo stesso all'andata. Dovevano reagire in altro modo, ma hanno reagito come, insomma, dei veri tifosi e dei veri amanti dello sport in generale, insomma. E questo, al di là dei buoni sentimenti della retorica, mi sembra una storia, mi sembrano parole splendide, mi sembra bellissimo tutto quello che è successo a 200 metri dal Bentegodi. Poi al di là di tutto, poi tu non, insomma, hai un conto aperto con la Fortitudo, sì, perché mi sembra che non li ha ringraziati a dovere, gli ha messi 29, li hai maltrattati un'altra volta, 27 all'andata, 29 al ritorno. No, vabbè, a parte la prestazione personale, ma purtroppo la Fortitudo è la Fortitudo, chiunque giochi con la Fortitudo penso che voglia fare il massimo, perché insomma è un galà del basket, è una partita che tutti, una partita che durante la stagione tutte le squadre, tutti i giocatori aspettano, vogliono giocare. E niente, sono stato contento sì della mia prestazione, sono stato ancora molto più contento del risultato finale, insomma, perché è di come hanno giocato i miei compagni di squadra, soprattutto, che veramente uno dietro l'altro, nessuno si è tirato indietro e non era una partita facile, insomma. Loro sono la corazzata del campionato, sono i primi in classifica, quindi non è mai una partita facile contro i primi in classifica. Ma noi abbiamo fatto diventare quasi una partita bella da vedere, oltre che essere una partita. Certo. Io lo chiamo ancora B1 e si vede la gran pallacanestro, l'unico vero campionato italiano che ci resta. Senti Osmane, io ho letto alcune tue interviste e tu dici: mi piace giocare con il pubblico, mi piace scherzare con il pubblico, mi piace avere un rapporto diretto con il pubblico, non solo quello di casa ma anche quello degli avversari, come questa storia testimonia. Qual è il tuo rapporto con il pubblico? Con il pubblico dei palazzetti italiani? Beh, non è sicuramente come quello che c'ha Balotelli con il pubblico degli stadi, insomma. Il mio è io, a prescindere, rispetto sempre il pubblico e l'avversario, quindi è il lavoro che faccio e lo sport che faccio, insomma. Poi, insomma, in una partita ci stanno tante cose, cioè in una partita ci stanno le provocazioni, ci stanno le reazioni, no, le reazioni non tanto, però le provocazioni sempre nell'ambito sportivo ci possono stare, insomma, perché non è una partita amichevole, insomma, è una partita dove ci sono due squadre che si scannano pur di vincere, quindi per forza che deve essere così. Ma non, ciò non toglie che, insomma, finita la partita si può uscire a mangiare una pizza tranquillamente, insomma. Quindi io non ho un rapporto di conflittuale con il pubblico, né soprattutto quello avversaria, ma ho solo un'adrenalina che, insomma, uso magari innalzando il pugno al cielo quando faccio canestro, ma è una forma di esultazione mia personale, insomma. Certo. Senti, c'è un ascoltatore di Bologna evidentemente colpito, non so se tifoso della Fortitudo, che scrive se puoi giocare in nazionale. Io non posso giocare in nazionale perché, vabbè, 20 anni che sono in Italia, ma la burocrazia, insomma, non ho ancora le carte, il passaporto italiano, insomma. Però stiamo lavorando, anche se è un po' lento. Senti, invece Osman, volevo chiederti questo: tu giochi in una piazza, tra l'altro, dove la pallacanestro è sempre stata uno sport molto amato, la società ha avuto dei momenti difficili, però Verona sta tornando in grande stile. Sta tornando in grande stile anche dal punto di vista proprio della risposta del pubblico, perché c'è sempre tantissima gente a vedervi. Sì, sì, beh, il pubblico ha risposto alla grande, alla chiamata di mercoledì. Ma comunque noi durante il campionato abbiamo sempre un bel tifo, un bel pubblico, molto educata, quindi molto sportivo, quindi è un onore, insomma, giocare sempre ogni sabato o mercoledì, insomma, con un pubblico del genere, perché c'è sempre 3.000 persone a vederci che giochiamo contro la prima o che giochiamo contro l'ultima in classifica, insomma. Senti Osman, invece di quello che è successo al Bentegodi e in generale di queste polemiche che coinvolgono Mario Balotelli, tu cosa pensi? Ma io penso che Balotelli, insomma, per quel poco che lo conosco, poi personalmente non lo conosco, cioè sia un giocatore bravo, talentuoso, giovane, tutto quello che vuoi, ma è un giocatore che o non si rende conto della fortuna che ha nel giocare un club come l'Inter, nel fare sport come lavoro, o proprio di carattere, il suo carattere è così, cioè poco umile, poco serio, ma quello, io penso che ognuno può comportarsi come vuole. Però, cioè, se dopo, secondo me, ti becchi magari dei fischi dal pubblico dopo che magari hai sbeffeggiato un loro giocatore mettendogli la palla davanti, perché io conosco anche un giocatore del Chievo che è mio amico caro, quindi la partita l'ho vista prima della mia in TV, e quindi non penso che il suo comportamento sia idoneo, diciamo, al suo nome e al club in cui gioca. Comunque ognuno è libero, ripeto, di fare quello che vuole, ma dopo basta che ne subisce le conseguenze. Dopo di accettare le conseguenze. Arrabbiare, sì, la cosa che mi fa arrabbiare è che se dopo le conseguenze sono dei fischi, non tramutarli in cori razzisti, perché il Chievo, io ci metto la mano nel fuoco, è una tifoseria non educata di più. Sì, no, ne subisce le conseguenze e va benissimo, conseguenze che però siano accettabili e civili, questo è indubbio. Ma si parla del Chievo, se Balotelli conoscesse un po' la società del Chievo, cosa che, di cui dubito, saprebbe che uno, Chievo, il presidente stesso del Chievo è tifoso dell'Inter, due, che è una frazione di Verona dove penso c'è la tifoseria che... Beh, c'è Luciano e Riberto che gioca nel Chievo da una vita ormai, quindi è come se fossi un veronese ormai. Cioè, accusare il Chievo di aver fatto insulti o secondo me, io non lo vedo una cosa, cioè, intelligente, capito? Non ha, sì, no, ma si tratta soltanto di... Io non ero allo stadio, ma... Io non avrei usato parole così forti, perché offendi una città, offendi un club che... Sì, ma questo... sono il primo, perché ma penso che quando si esagera con le parole, perché hai degli atteggiamenti sbagliati in campo, ne devi pagare le conseguenze senza tirar fuori di mezzo altre cose che non, non hanno a che fare, che sono cose molto più serie di come le fai sembrare tu, insomma. Flavio. Io volevo, Usman, volevo approfittare della tua disponibilità per riportarci un po' in campo, anche per dare un po' ai nostri ascoltatori la dimensione di quello che è il campionato di A dilettanti, che io e Carlo continuiamo a chiamare B1, perché insomma questo è come l'abbiamo sempre conosciuta. Un campionato dove per molti il livello tecnico è molto alto, ci sono giocatori certamente interessanti, insomma si vede una buona pallacanestro. Ma io penso che la dilettante sia il vero campionato italiano, insomma, quindi io penso che di livello cresca in anno sempre di più, e quindi è un bel basket da vedere, dà delle belle emozioni, in più c'è più contatto con i club, con i tifosi, è professionista, professionismo un po' più familiare, diciamo, un po' più italiano, un po' più casalingo, diciamo, no? Sì, si vedono, è il campionato dove giocano i giocatori italiani, compreso Usman. Bocca al lupo, grazie, alla prossima. Grazie davvero, Usman. Grazie a Usman Gueye con questa storia che a me è piaciuta molto, non so a voi, sto leggendo i messaggi, qualcuno sì, ad altri no, ma fa parte del gioco, cioè Max, ieri ci sono state varie testimonianze alla vostra radio che affermavano che Balotelli ha risposto a tanti cori razzisti, o dica sì, vorrei chiudere un po' questa storia perché francamente mi sembra stia diventando pelosa, poi c'è tutto un weekend avanti e credo che su questi temi avremo modo di tornare. Detto questo, e al di là delle parole, esistono, ed è bene sottolinearlo, gli strumenti giuridico-sportivi per frenare queste situazioni, ed è quelli che bisognerebbe usare. Non si può, mi sbaglio, si può sospendere una partita? Non ti sbagli, c'è un responsabile, no? Dell'ordine pubblico che deve dire all'arbitro che deve sospendere la partita, quindi ricordiamo anche in 10 secondi che non è l'arbitro che deve essere responsabile della sospensione della partita per regolamento, ma è il responsabile dell'ordine pubblico che comunica all'arbitro il fatto di dover sospendere la partita. Però spendiamone esiste, una, spendiamone due, spendiamone tre, poi scommettiamo che non ne sospendiamo più. Sono d'accordo. Lasciamo stare, ci fermiamo per la borsa, subito dopo torniamo e ricominciamo a parlare di basket anche eventualmente con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Ecco che torniamo con diversi messaggi, compreso uno che è realistico, no? In B1 ci sono un sacco di giocatori che stanno lì perché il regime, come sapete, non è professionistico, e dunque questo gli consente di guadagnare un po' più soldini rispetto al piano di sopra, rispetto alla Lega 2, alla Serie A, eccetera. Vabbè, altri discorsi, compresi quelli su Balotelli, eccetera, perché non voglio però, argomenti su cui non mi va di tornare. Questa storia l'ho voluta raccontare perché mi sembrava una storia molto interessante, da un punto di vista ancora più interessante come quello di Smangui, che ripeto è un giocatore di colore nato in Senegal, che vive in Italia da quando aveva 4 anni, ora ne ha 27, e ha detto quello che pensava e che grosso modo io condivido quasi in toto. Vorrei però tornare a parlare di basket anche con gli ascoltatori che interverranno, ripeto 800 24 00 24, numero verde, perché in questo campionato delle strisce, mi sembra una curiosità questa, l'Avellino, la lunga striscia iniziale, lasciamo stare Siena che vive in striscia da un sacco di stagioni, Milano che fa 7 su 7 prima di perdere a Roma, Caserta 4 su 4 prima di perdere l'Avellino e poi tornare a vincere nel turno infrasettimanale. Anzi, domenica scorsa. Ebbene, in questo campionato delle strisce si iscrive la Scavo Sparra, 0 su 8 all'inizio, però 4 adesso su 4. 4 su 4. Nostro amico Luca Dal Monte è collegato con noi. Luca, buongiorno, ciao coach. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'amico. Lo sappiamo, è stato nostro ospite e ti aspettiamo ancora quando passi di qui, Molto volentieri. Devo prendere degli appuntamenti. Intanto tu hai le mani piene con una Scavolini che lievita. Sì, ho le mani piene, beh, relativamente, perché poi, voglio dire, si erano svuotate abbastanza nelle prime giornate. Speriamo di continuare a lievitare, malgrado il nostro cammino non sia fortunato, perché abbiamo un problema in essere proprio alla vigilia contro Bologna, però abbiamo assorbito, perlomeno nella qualità del gioco, nel volume del gioco, le assenze iniziali di inizio anno, e non piangiamo sicuramente adesso che siamo un po' più in corsa, però siamo anche consapevoli che sarà un cammino, perché l'imprevedibile è sempre dietro l'angolo, sarà un cammino comunque molto difficile, molto lungo, ma ci stiamo attrezzando per farlo nel miglior modo possibile. Coach, quanto c'era di psicologico in quella terribile striscia negativa di inizio anno? A parte il fatto che Eric Williams è un giocatore che da quando è rientrato vi ha fatto svoltare la stagione, questo l'ha detto il campo. Però a me viene in mente una partita tipo quella di Milano che voi avevate praticamente già vinto e che secondo me avete un po' perso proprio per la cosiddetta scimmietta sulla spalla, no? Che finché non vinci una partita non ti togli mai. Io credo che più rispetto a quella di Milano, personalmente direi quella con Cantù in casa, ancora maggior ragione da un punto di vista psicologico, a Treviso e a Caserta, aggiungo, forse anche con Roma in casa, e quindi la risposta è, per noi in certe partite, perlomeno in tante partite, la pressione e la non fiducia dovuta ai non risultati delle primissime giornate ha inciso sul 60-70%, perché oggettivamente noi per troppe partite abbiamo comandato fino a 3, 4, 2, 1 minuto dalla fine e poi ci siamo persi proprio perché mentalmente eravamo troppo condizionati da delle sconfitte che erano figlie di un'assenza di Eric Williams, probabilmente di un'assenza di Eric Williams più Branko Cvetkovic sicuramente, in più perché Van Rossum è un giocatore che nel momento in cui si è deciso di dargli un ruolo diverso in questa squadra ha dato un contributo importantissimo. Sì, però purtroppo, scusa Carlo, si è infortunato Van Rossum perché ha un problema al quadricipite della gamba sinistra, questo sì. Era il problema a cui il coach faceva riferimento prima. Facile individuare nel rientro di Eric Williams, il centro più dominante del campionato, l'inizio di questa crescita, Luca, però credo ci sia di più, perché ho visto un Michael Hicks diverso nelle ultime partite, ho visto un Marcus Green diverso nelle ultime partite. Ma perché poi tutte le situazioni a cascata si rendono migliori, quindi quando tu parti con un progetto ben determinato e con una serie di scommesse attorno al progetto e un pilastro del progetto viene a mancare, poi dopo anche le scommesse cominciano ad essere meno forti rispetto all'essere scommesse, che comunque è imprevedibile, e di conseguenza è tutta una serie di situazioni a cascata che viene a succedere, e poi di conseguenza chiaramente perdi un po' di autostima, perdi un po' di fiducia e si impiega un secondo a perdere l'autostima, ma poi invece una giornata intera magari per riconquistarla. È un po' la parabola che è successo e che ha colpito in un modo o in un altro anche giocatori di assoluta esperienza e di grande talento come Green, come X. Però adesso io vorrei riuscire a girarmi indietro il meno possibile, anche se l'analisi è doverosa ed è implacabile, e cercare di guardare avanti il più possibile, tenendomi stretto non solo i risultati, ma anche il fatto che la squadra ha in tutto questo tempo mantenuto grande fiducia nel sistema e soprattutto è rimasta unitissima di fronte anche dei risultati negativi. Curioso notare le statistiche, non so se le hai viste, Flavio Lascavolini. Luca Dalmonte ha giocatori primi o secondi in quasi tutte le graduatorie. Allora, Marcus Green secondo negli assist, primo nei recuperi, primo anche nelle palle perse. E questo piacere non farà il coach. Questo piacere non fa il coach, però insomma il giocatore lo conosciamo. Poi c'è Eric Williams, primo nella valutazione, secondo nel tiro da due. Van Rossum, leader della classifica, percentuale da tre punti. Lo stesso Williams, che pure ha giocato meno partite rispetto agli altri, terzo nei rimbalzi totali, nei rimbalzi offensivi. Però c'è una Scavolini anche ultima nella percentuale al tiro libero, coach. Qui Williams però incide abbastanza. Esatto. No, visto che lo abbiamo premiato con questi podi e medaglie nelle altre classifiche, bisogna... No, sì, non... questo per assurdo nella sua globalità dice un po' anche nel discorso della pressione, della tensione, della pesantezza di alcune partite un po' diluita su tutti. Poi sicuramente devo ammettere, abbiamo i due centri che come coppia forse sono i meno prolifici da questo punto di vista, però fortunatamente, come voi avete fatto osservare, possono poi fare qualcos'altro dentro al campo, e quindi va bene così, cercando di non far loro arrivare la palla quando siamo in bonus e quando gli altri magari cercano di far fallo sistematico. Cioè, Pesaro può essere un fattore, Pesaro ambiente, Pesaro città, Pesaro pubblico, un fattore pesante quando le cose non vanno bene, però può essere anche tanta benzina quando la squadra comincia a girare. Com'è l'ambiente in questo momento dopo la depressione iniziale? Ma guarda, è fuori di dubbio che c'è stata la depressione, fuori di dubbio che c'è stato... dico malumore, ma in realtà è stato un relativo malumore. Io personalmente mi trovo benissimo, a parte la qualità della città, che è una città a misura d'uomo con un fattore determinante in più che è il mare, che non è solo il mare in quanto acqua, ma è il modo di vivere il mare del quotidiano, che a me affascina, mi piace e rende Pesaro sopra la qualità della media abbondantemente. Devo dire che il pubblico ha capito molte delle nostre difficoltà iniziali, le ha comprese, poi chiaramente non c'è più stato fino a un numero X di sconfitte, però il modo di porsi è sempre stato molto, da culturalmente parlando, di alto livello, culturalmente parlando dal punto di vista gestito, certo, inteso, certo. Perché se c'è una cosa, tra l'altro, che mi ha affascinato in estate e che oggi ho avuto la certezza che è la cultura cestistica, la capacità di discernere le situazioni dove c'è qualcosa che non va veramente, oppure c'è qualcosa che non va, ma ecco la forza anche di dire dai, ci siamo, continuate, fate, perché non c'è stata mai una reale... La strada è giusta, l'hanno capito, perché i pesaresi la pallacanestro la capiscono bene. Certo, Carlo, tra l'altro non è facile trovare anche di questi tempi una società, una squadra che permette a un allenatore di lavorare dopo 8 sconfitte consecutive. Questo possiamo dirlo tranquillamente. Magari insomma Pesaro ha avuto anche il merito di saper aspettare, insomma avete dimostrato compattezza anche da questo punto di vista. No, non potete dirlo, dovete dirlo, perché secondo me è un quid in più che va alla società, che va alla città, che va all'opinione pubblica, che va alla gente. Poi è chiaro che in 4.000 persone che vengono al palazzetto, voglio dire, dico un numero esagerando per eccesso, ma voglio dire, ne sono consapevole, 1.000 voglio dire, non erano d'accordo su niente e lo saranno anche forse fino alla fine. Però sicuramente la scelta che la società ha fatto, e che comunque il comportamento che la maggior parte delle persone, dell'opinione pubblica ha avuto, è veramente da decantare in una cultura sportiva che non è sempre il massimo degli esempi da seguire. Credo che invece sia importante enfatizzare quello che è stata la scelta di Pesaro, se non altro per metterlo in contrasto con quello che sono le abitudini, perché le abitudini non significa sempre che siano le scelte le migliori da fare. Dunque adesso, prima di salutare Cosa dal Monte, parliamo anche con un ascoltatore che chiama da Ferrara. Dimitri, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei, dica. E intanto volevo dire che è sempre un piacere ascoltare Cozzi da Ponte, che noi so. Abbiamo avuto. Lo so che gli volete bene, lo so. Sì. Lo sa, soprattutto lo sa lui. Sì, un grandissimo personaggio. Io volevo intervenire per avere una vostra opinione sulla situazione odierna della Carife, che ha recentemente, anzi da pochissimi giorni, tagliato Allo il pivot, quindi mi ricollego con il discorso che facevate di Pesaro, che invece ha un centro Williams che sta facendo la differenza. Noi abbiamo dovuto tagliare Jamison per prestazioni non sufficienti. E poi volevo sapere cosa ne pensate, ecco, di questa mossa, e poi anche dei rumori che si sentono, cioè il GM Crovetti sembra che stia per firmare Beširović e Charlotte Ford. Ecco, volevo sapere che cosa ne pensate. Beh, se li prende non sono mica male, tutte e due. Sono due super. Coach, cioè, cosa ne pensi di Ferrara? Beh, innanzitutto devo dire, Ferrara è una città straordinariamente affascinante, e non lo dico perché sono in ascolto, ma lo dico perché ho avuto la fortuna di viverla, ed è forse una, dal punto di vista turistico, meno più sottovalutata nelle nostre città storiche e di arte. Io credo che siano più di qualche voce, sia Beširović sia Sheldon Ford. Credo che siano molto più vicini di quanto le voci possono pensare che possano essere ipotesi. Sono un po' più che un'ipotesi, e che giustamente col vostro sorriso, se arrivano entrambi, credo che metaforicamente Ferrara prema il dito sull'ascensore dei piani alti della sua classifica, perché sono due giocatori, direi, oserei dire, passatemi il termine, clamorosi, che vanno poi ad aggiungersi comunque a un gruppo che secondo me ha lottato alcune partite anche recenti, vedi Montegranaro perso per un rimbalzo alla fine, piuttosto che Avellino 2 o 3 settimane fa ad Avellino, e quindi vuol dire che è un gruppo vivo, un gruppo sano, che con due innesti di qualità, fisicità e quant'altro può diventare veramente una squadra di talento e di fisicità importantissima, e che di conseguenza ci deve fare preoccupare non poco. Grazie coach, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Alla prossima, grazie coach. Luca Dal Monte, Marco da Milano, subito dopo il traffico. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dica. Dunque, io sono tifoso Olimpia, sottolineo Olimpia, non Armani. Da parecchio tempo, e credo un paio di mesi fa, leggendo la classifica marcatori via 1, vedevo che i primi tre italiani, adesso non so in quale ordine, fossero Aradori, Di Bella e Michelori, se non sbaglio. Sì. Tre che, guarda caso, in questi ultimi anni sono passati per Milano, passati senza lasciar tracce, perché sono stati immediatamente ceduti poi in strani giri che hanno portato qui tutti stranieri. Ora, io da un lato interpreto questa cosa come un'incapacità sostanziale di Milano di saper valorizzare i giovani in sé, cioè di questa Milano, di questa gestione in sé. Trovo questa cosa peraltro anche abbastanza in conflitto con quello che potrebbe essere il progetto Armani, vale a dire richiamare gente al palazzetto, perché nel momento in cui riesce a organizzare un nucleo di italiani giovani, che tutto sommato possono anche essere un appeal per il movimento in generale, secondo me un ritorno di pubblico ce l'hai. Quando continui a cambiare stranieri su stranieri, che onestamente non riescono a dare mordente a niente, io penso che deludi anche questo tipo di strategia aziendale che potete avere in mente. Sì, si tratta di italiani, ma si tratta anche della qualità degli stranieri, si tratta di un appeal che non esiste. Io non, insomma, Michelori, Di Bella e Aradori hanno avuto storie molto diverse. Sì, poi tra l'altro credo che solo per Aradori si possa parlare, diciamo, del concetto di italiano giovane. Adesso non ce ne voglia il nostro amico Fabio Di Bella, che la trentina l'ha passata anche lui. Diciamo piuttosto un giocatore, per esempio, come Vitali. Allora su questo posso stare sul discorso dell'ascoltatore. Allora quello sì, che poteva essere, insomma, no, poi si tratta anche di stranieri, è vero, di qualità degli stranieri, sì, per avere grip su Milano. Io saluto il professor Tranquillo. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. Senti, voglio far sentire anche a te Gallinari che canta, però te lo faccio sentire, l'avrai già sentito, visto su YouTube, perché è bellissimo, però voglio farlo risentire perché è la mia sigla per il 2010. Sì. Every word I had to break is the risk that I'm taking. And I'm never gonna let you down. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Maybe ripeto, secondo me è bravissimo. Io continuo a preferire Beyoncé, ovviamente non su un campo da pallacanestro. Io continuo a preferire vedere Al Harrington che si tiene la pancia in mano da ridere. Intanto è caduta la linea con Flavio Tranquillo. Carlo, ti dico questo, visto che ci siamo, che sì. Eventualmente Charlotte Ford e Becirovic non giocheranno chiaramente la prossima partita di Ferrara contro Treviso in casa, ma potrebbero essere eventualmente disponibili per la prossima, perché i tesseramenti per questa giornata di campionato si chiudevano questa mattina alle 11 e non ci sono questi giocatori. C'è Tyrone Grant, vecchia conoscenza, che va a fare un mese di contratto a Treviso, aveva già debuttato in Europa. Torna in Italia anche Donny McGrath, che va a Varese. McGrath l'avevamo visto con la maglia di Cantù e a passaporto irlandese. C'è anche, a parte altri movimenti in Lega 2, ce n'è uno molto curioso, perché Pavia ha ingaggiato Gio Forte, che ricorderà i playmaker di Montepaschi Siena, dello Scudetto, poi chiaramente anche Bugaev a Vigevano e Misser a Casal Pusterlengo. Però Forte è un giocatore che certamente per la Lega 2 è un lusso. Via, no, non c'è dubbio. Flavio, ci sei? Ci sono. Hai messo giù per non sentire Gallinari che cantava? Sì, esatto, è troppo intonato, non riuscivo a reggerlo. È troppo intonato, eh? Io continuo a preferire Beyoncé, ripeto, ma non su un campo da pallacanestro. Lì preferisco il Gallo, che ne parlavo prima con Coach Peterson, anche nella notte con la faccia giusta ha messo i canestri che contavano negli ultimi due minuti, perché sono quelli che contano, no Flavio? Direi che quello lo facevano giocare anche a Milano, anche se era giovane. Lo facevano giocare anche a Milano, però sta sul discorso di prima, sì. Questa battuta è facile, siamo di fronte alla grande occasione, perché questo è uno che per 10 anni può essere un giocatore importante nell'NBA. Gli auguro A, di star bene, B, di trovare almeno un compagno, perché mi sembra veramente fatto dal sarto per fare il secondo violino, violino del livello di Scottie Pippen, tanto per fare un nome, e poi il resto a tutto, solo la salute e il primo violino gli manca. Gli manca la salute e il primo violino, la salute è tornata. La salute adesso è tornata. Ma vogliamo che gli resti. Però gli serve un primo violino e poi anche i DVD che gli ha regalato Donnie Walsh, quelli di Larry Bird. Sì, esatto. Senti Flavio, domenica hai raccontato per Sky naturalmente Roma-Milano, ieri un Roma che batte Milano, ieri un altro film, Roma che torna quella pre-Boniciolli, Milano che ha confermato invece, in linea con la partita di domenica, una certa flessione, non trovi? Sì, flessione di risultati, onestamente direi che non era bella come facevano sembrare 7 vittorie consecutive, non è brutta come la fanno sembrare 2 sconfitte consecutive. Io credo che il problema sia che così tante flessioni o così tanti picchi non ci sono, e questo non è necessariamente un buon segno, anzi. Certo. La spersonalizzazione di Ibrahim Jaber invece per me è un mistero. Ieri sera sentivo parlare addirittura di taglio. A me è un giocatore che piace da morire, però la sua spersonalizzazione, torno a ripetere, è abbastanza misteriosa, da leggere dal di fuori. Io penso che una cosa possiamo aver stabilito da questa altalena: è partito facendo 28-32 nelle prime due, poi è andato calando, poi è risalito un po'. Con la partita di Varese adesso è ripiombato a 0. Io credo che possiamo stabilire con certezza A, che non è né un tiratore puro né un realizzatore puro, e ancora prima di A, se ci fosse una lettera dell'alfabeto, che non è un leader. Secondo me, poste queste due cose, metti le aspettative nei confronti di Jaber al livello giusto, e allora è un giocatore che secondo me fa molte cose utili su un campo di pallacanestro. Se invece gli dici mi devi fare 25 punti e magari ne devi fare 30 quando sono in difficoltà, io credo che abbiamo sbagliato indirizzo. Ma tu lo taglieresti? Ma intanto mi rifiuto abbastanza di partecipare ai quiz, taglieresti questo, quell'altro, il 3 comunitario, il 2 americano. Secondo me è un buonissimo giocatore, ripeto, è un giocatore di complemento. Impazzisco per Gallinari, ma se mi dici con Gallinari da prima punta vinci il titolo NBA, no. La seconda punta, sì, dipende dal ruolo, dipende dal contesto, dipende dal sistema, eccetera, eccetera. Se il problema di Roma viene identificato in non abbiamo un leader e, non so per quale motivo, tagliando Jaber acquisiamo un leader, allora forse lo taglierei anche, ma non vedo correlazione, nel senso che il problema è trovare il leader, non tanto eliminare chi leader non è, ma solo ammetterlo davanti allo specchio. Però Flavio, forse può sembrare paradossale il fatto che magari la Lottomatica potrebbe anche rimpiangere Becirovic, un Becirovic sano chiaramente, perché credo, sentendo le tue parole, che possa rispecchiare per caratteristiche proprio quel giocatore che faceva bene anche a Jaber. Tecnicamente di sicuro, nel senso che uno che devo ancora trovare uno che non giochi bene con Becirovic, che è un giocatore delizioso, un leader, però secondo me non ha una delle caratteristiche di Becirovic, ovvero sia Becirovic per motivi fisici dopo l'infortunio mi sembra ancora più delizioso, ma non in grado di giocare, diciamo, 30 se non 40 certo. partite sempre allo stesso livello, e se non 40 30 minuti sempre allo stesso livello. E un leader invece secondo me deve avere questa caratteristica della continuità sia all'interno della partita che all'interno della stagione. Adesso io credo che vedremo un Becirovic, per quel che mi risulta, da 30 se non da 40 minuti, ma a un livello diverso. Mi risulta che stia per andare a Ferrara. Ferrara. Insieme a Charlotte Ford la coppia non è male per rialzare Ferrara, eh? No, sulla carta no, nella maniera più assoluta. Senti, Bulleri, come leggi il suo momento? Milano non lo voleva più, adesso si ritrova il Bulleri che è in questo momento l'arma offensiva principale. Finlay non sta giocando molto bene, però la chimica di Bulleri con uno che si incarica del playmaking funziona? O è solo un caso questo momento di Bulleri, o solo la condizione buona del Bullo? No, direi che non è un caso, direi che concorrono un po' di elementi, uno l'hai citato tu ed è il fatto a cui facciamo riferimento, ci sono contesti tecnici e umani in cui Bulleri vale 10, contesti in cui vale 5, contesti in cui vale 1, questo è più, diciamo, quello da 5, magari non da 10 ma da 5, 6 o 7. Poi l'altro elemento che concorre è che non c'è più Hacker, quindi ci sono spazi per tanti, e il terzo e principale secondo me è che ormai non può più avere alcun tipo di pressione, tutte le pressioni possibili le ha già provate e superate o non superate, soprattutto non superate a Milano in questa situazione, oltretutto dopo un inizio in cui sembrava completamente fuori dai giochi, gioca senza pressione e con gli spazi di Hacker. È una situazione in cui Bulleri, e lo ha dimostrato non più tardi di qualche mese fa a Treviso, può essere non pericoloso, molto pericoloso. Guardando ciò che succederà tra... domani, siamo all'immediata vigilia del derby forse più sentito in Italia, a parte quello di Bologna. Varese-Cantù, con Cantù, Flavio, che si presenta a questo derby come nettamente squadra del momento. Nettamente squadra del momento, squadra che secondo me dimostra che quando parliamo di programmare o comunque di ragionare nell'assemblare una squadra, che quando parliamo di mantenere la calma dopo 3 vittorie o dopo 2 sconfitte, che quando parliamo di infortuni e assenze che tante volte non sono necessariamente una disdetta o un disastro, ma a volte, abbiamo finito appena di parlare di Bulleri, possono essere anche quella che in America viene definita una blessing in disguise, una benedizione sotto forma di maledizione, direi che Cantù è la dimostrazione di tutti questi concetti, soprattutto del primo: lavoro, un'idea di gioco da parte dell'allenatore, di società da parte della società, di reclutamento e formazione dei giocatori da parte del general manager, un po' di tempo per farla maturare, un po' di tranquillità, anche se ogni tanto c'è una battuta d'arresto, perché poi naturalmente non puoi pensare, spendendo un quarto degli altri, di vincere 4 volte certo. tante partite, e voilà, non è complicatissimo a naso. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. A voi. Grazie Flavio Tranquillo, a Flavio Suardi qui con me. Alla prossima. Franco Piantanida in regia, in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Con lo sport torniamo domani alle 17. Buona giornata a tutti.